Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, partiamo subito dai dati di cui ci occuperemo in apertura, e quindi le esportazioni italiane, il primo dato del 2009 riferito alle esportazioni fuori dall'Europa, e vi ha detto che è il primo dato positivo dopo 12 mesi consecutivi di calo. A gennaio infatti, rispetto a un anno prima, c'è stato un aumento delle esportazioni del 4,7%, un calo invece rispetto a dicembre, ma diciamo, in questo periodo è meglio guardare il bicchiere mezzo pieno, e vediamo appunto un dato per la prima volta positivo dopo un anno di cali consecutivi. Tra l'altro, rispetto a gennaio del 2009 le esportazioni sono aumentate, ma le importazioni sono calate del 3,7%, con la conseguenza che è migliorata la nostra, il deficit della nostra bilancia commerciale, è stato pari a 3 miliardi e 190 milioni contro i quasi 4 miliardi dello stesso periodo di un anno prima, e ne parleremo appunto in apertura, così come toccheremo il tema dei dazi per le nostre imprese esportatrici. Poi il rapporto oggi presentato su Sole 24 Ore del lunedì, l'Italia misurata dal fisco, la ricchezza nei vari comuni, e insomma emerge un'Italia che già conoscevamo, ma la geografia dei guadagni dichiarati dai contribuenti vede al comando Milano con 30.000 euro a testa, il triplo rispetto all'ultima in classifica. Se Milano infatti è la prima come città, l'ultima è Andria, 11.569 euro in media dichiarati a testa, ma soprattutto pone anche degli interrogativi sul cosiddetto federalismo fiscale, e ne parleremo anche di questo, parleremo in apertura. Poi, come sempre, i mercati finanziari, i mercati oggi poco mossi, nel senso che sono tutti sostanzialmente invariati, sia l'America che Parigi che Londra. Francoforte perde qualcosa in più, meno 0,26%, Milano meno 0,1%, ma insomma poco mossi gli indici, con un euro a quota 1,3590. Tra i titoli segnaliamo Telecom in calo del 2,4%, Bulgari del 2% come CIR, Campari perde l'1,6%, Parmalat l'1% come Unicredito e Buzzi Unicem, ma anche Mediaset cede lo 0,90%. Chi guadagna? Pirelli di nuovo sugli scudi, più 2%, più 1,6% Mediolanum, più 1,3% Tenaris e Mondadori, l'1% rialzo di stimato Microelectronics, Finmeccanica più 0,90%, Mediobanca più 0,80%. Rapidamente le altre notizie in breve. Come sempre il petrolio, beh, insomma, siamo arrivati a $80 al barile nel petrolio oggi, con un'apertura anche in leggero rialzo. La notizia più forte dall'estero oggi di nuovo riguarda Toyota, oltre che il piano sanitario dell'amministrazione Obama, ce ne occuperemo nella seconda ora del programma, ma insomma dove parleremo anche di turismo, perché la chiusura della BIT, della borsa del turismo, è anche l'occasione per fare il punto. Buona l'affluenza, lo dico subito, della BIT, a segnalare un risveglio, ci auguriamo duraturo e strutturato, dei flussi turistici, più 6% le presenze. Comunque, dicevo, la notizia più importante di oggi riguarda Toyota dall'estero, e beh, insomma, la vicenda si complica. Abbiamo detto più volte dei ritiri, delle centinaia di migliaia di auto ritirate di vari modelli in tutto il mondo. Oggi arriva un'altra accusa Toyota dagli Stati Uniti, perché secondo il ministro dei trasporti americano, l'America aveva iniziato a indagare sui difetti di alcuni modelli dal dicembre del 2003, e è emerso poi attraverso la documentazione che ha presentato il numero uno della Toyota, che poi verrà sentito al congresso americano, che la società, in un rapporto del luglio 2009, era a conoscenza totale, completa, delle accelerazioni improvvise, cioè del difetto al pedale dell'acceleratore dei modelli Lexus ES, Camry, Tacoma e Lexus LS. Il risparmio fatto dalla Toyota nel 2007, ritirando praticamente pochi modelli per i problemi al tappetino dell'acceleratore, permise alla Toyota di risparmiare oltre 100 milioni, è anche sotto accusa perché se i difetti erano conosciuti prima, l'accusa americana è: non avete operato non solo con tempestività ma anche in maniera incisiva. E Toyota stessa ha annunciato di aver ricevuto dagli Stati Uniti un atto di citazione per un gran giurì federale per i documenti relativi ai difetti del pedale dell'acceleratore che hanno causato il maxi ritiro di auto. Praticamente la Toyota ha ritirato qualcosa come 8 milioni di auto in tutto il mondo e oggi è stato annunciato anche il blocco temporaneo della produzione in Gran Bretagna e Francia per 8 giorni. Annunciato e oggi messo in atto invece, anche restiamo in tema di auto, la cassa integrazione negli stabilimenti Fiat, 30.000 lavoratori in cassa integrazione fino al 5 marzo, lo stop alle fabbriche il 26 gennaio, motivato dalla Fiat come conseguenza del forte calo degli ordini e la necessità di adeguare i livelli produttivi alla domanda. Secondo comunque i dati dell'UNRAE, che è l'associazione dei costruttori esteri, la raccolta degli ordini nel mercato italiano ha subito a gennaio e anche nei primi 10 giorni del mese di febbraio un calo di oltre il 50% rispetto all'ultimo periodo 2009, quando erano in vigore gli incentivi auto. E immaginiamo che farà discutere il fatto che nel frattempo la secondo quanto riportato da un quotidiano locale americano, insomma, la Chrysler starebbe proprio nello stabilimento di Toledo, dove viene pubblicato questo quotidiano che si chiama Blade, diciamo, starebbe cercando 1700 nuovi posti di lavoro, la maggior parte dei quali con una paga oraria di $14, praticamente 10,3 euro. Dalla Fiat però su Termini Imerese oggi laconica risposta del vicepresidente John Elkann, che ha detto: su Termini Imerese abbiamo già detto tutto. Era una risposta anche all'intervista del ministro Sacconi, però oggi sempre il ministro Sacconi ha dichiarato che su Termini Imerese la Fiat ha cambiato linea. È un'intervista a Quotidiano della Repubblica, da lì poi la risposta di John Elkann, e ha poi chiesto, si è impegnato a fermare la fuga delle multinazionali dall'Italia. Della riforma sanitaria di Barack Obama ci occuperemo nella seconda ora del programma, e nel frattempo registriamo anche il crollo dell'economia messicana nel 2009, meno 6,5% il PIL. Il fronte greco oggi vede l'arrivo degli esperti della Commissione Europea, della Banca Centrale e del Fondo Monetario, sono giunti appunto oggi ad Atene per verificare il piano di saneamento greco. Nel frattempo non esiste, lo hanno smentito i vari portavoce europei, non esiste alcun piano di aiuti finanziari dei paesi dell'area euro per aiutare la Grecia, si era parlato addirittura di 25 miliardi di euro. E però arriva il giudizio di George Soros sul Financial Times, dice: i problemi della Grecia e dell'Europa potrebbero non essere risolti semplicemente con il salvataggio della Grecia e potrebbero comunque mettere in dubbio l'esistenza dell'euro. Risposta chiaramente in diretta, quella di oggi di Corrado Passera, ministro delegato del gruppo Intesa San Paolo, ha detto: l'euro è una moneta forte che resterà forte. Parleremo più avanti anche dell'inchiesta della Guardia di Finanza negli scambi, diciamo, tra Italia e Repubblica di San Marino, 500 controlli al via, raddoppiati gli autovelox fiscali, e poi anche delle Ferrovie dello Stato, perché oggi Mauro Moretti ha annunciato un accordo con Telecom Italia e la scomparsa delle prime e della seconda classe nei Freccia Rossa, Freccia Bianca e Freccia Argento, diventeranno 4 livelli di classe. Ne parleremo più avanti. Adesso vorrei partire con il primo tema, mi riferisco ai dati sull'export, questo segnale, per quanto timido, di ripresa. Eh sì, perché oggi il dato è negativo mese su mese, gennaio su dicembre, meno 0,3%, però è positivo l'export italiano fuori dall'Europa, quindi extra UE come si dice in gergo, è positivo per un 4,7% rispetto a un anno prima ed è la prima volta, come dicevamo, da 12 mesi a questa parte. Siamo in collegamento con il vice ministro Adolfo Urso, che appunto ha la delega anche al commercio con l'estero, in collegamento con noi da Minsk, capitale della Bielorussia. Buonasera ministro. Buonasera. Allora vorrei, grazie a lei, vorrei un primo commento sui dati dell'export, poi arriviamo anche al tema dei dazi e anche al motivo per cui lei si trova a Minsk. Non bene il mese su mese, il congiunturale, bene invece l'anno su anno, perché per la prima volta vediamo un segno più dopo 12 mesi. Ma certo, è comunque una significativa inversione di tendenza. Avevamo già detto qualche giorno fa, commentando i dati del 2009, di questo anno terribile, che il 2010 sarebbe stato diverso e che avremmo segnato un incremento medio del 4% su base annuale, queste sono almeno le nostre previsioni. L'inizio è buono, a gennaio nei mercati extra UE c'è stata una sensibile inversione di tendenza rispetto allo scorso anno, è ovvio che siamo in presenza di una crisi dai multiformi aspetti che può riservare ancora purtroppo delle sorprese negative anche all'interno dell'Unione Europea per ovvi motivi finanziari, e quindi bisogna stare molto attenti e cauti e soprattutto occorre cercare nuovi mercati come le nostre imprese stanno facendo con il nostro supporto. Questa missione in Bielorussia lo dimostra, noi cresciamo infatti soprattutto, meno male, nei mercati emergenti, in Cina, in India, nel sud-est asiatico, nella sponda sud del Mediterraneo, persino nell'Africa subsahariana, in Brasile, laddove l'economia è tornata a marciare. Abbiamo ovviamente difficoltà ancora nei mercati tradizionali dell'Occidente. Per questo dobbiamo rafforzare il nostro sistema paese, supportare le nostre imprese anche con nuovi pacchetti finanziari creditizi come quelli che stiamo mettendo in campo con la SACE, la Cassa Depositi e Prestiti e la SIMEST, per supportare il deficit finanziario creditizio che la crisi delle banche mondiali ha purtroppo comportato nell'economia reale. Allora, lei ricordava dove le cose si stanno muovendo e sono i paesi che ormai gli unici, devo dire, che hanno visto una ripresa vera e forte. Nel caso della Cina non c'è mai stata la crisi, a questo punto possiamo dirlo, perché i numeri della Cina, la Cina ha avuto un minimo rallentamento. Comunque, le esportazioni italiane verso la Cina hanno fatto più 39% rispetto a un anno prima, le esportazioni italiane verso il Mercosur, quindi tutta l'area dell'America Latina, hanno fatto un più 34%, in America il calo c'è stato ma è più contenuto, meno 1,9%, meno 10% ancora in Russia invece rispetto a gennaio 2009, paesi OPEC anche qui ancora in calo, anche se un po' più contenuto, meno 4,8%, Giappone ancora forte il calo, meno 10%. Adesso arriveremo alle iniziative nei paesi che appunto sono, è inutile nascondersi dietro un dito, il motore di quel poco di ripresa che anche noi vediamo. Però lei ha chiesto a Bruxelles, se ho ben capito, che vengano eliminati o comunque ridotti i dazi sulle materie prime per le nostre imprese, dando anche delle stime su quanto avremmo risparmiato nel 2009 se avessimo tolto i dazi che oggi sono fra il 3 e il 7%, penso al ferro, all'acciaio, all'alluminio, al silicio, al legno, alla seta, al cuoio, insomma alle pelli. Qual è la possibilità che si arrivi a questo e voglio dire, l'obiettivo qual è sostanzialmente? Avere dei costi di materia prima più bassi? Guardi, siamo già riusciti nell'altra legislatura a convincere la Commissione Europea a ridurre su alcuni materie prime i dazi, in pratica sono stati già dimezzati. Speriamo di poter completare il lavoro in maniera significativa e abbiamo chiesto a tal proposito, con un documento che suffraga quanto noi chiediamo e documenta l'interesse per l'impresa europea, dell'abolizione totale dei dazi sulle materie prime che entrano in Unione Europea, soprattutto quelle dirette ai mercati manufatturieri e all'industria manufatturiera. Questo per diversi ordini motivi. Il primo perché ovviamente un più facile accesso alle materie prime e una riduzione del costo finale delle materie prime avvantaggia l'impresa manufatturiera che può a sua volta realizzare dei prodotti a più basso costo e quindi più competitiva sui mercati globali. Il secondo motivo per poter fare meglio quella, tra virgolette, guerra commerciale per l'acquisizione delle materie prime che I principali nostri competitori hanno scatenato ovunque nel mondo, parlo della Cina come degli Stati Uniti, delle loro presenza massicce in Africa. Noi abbiamo bisogno di essere più competitivi per l'acquisizione in generale delle materie prime e togliere ogni dazio al loro ingresso ci facilita. In terza istanza, perché questo ovviamente ci mette in una situazione negoziale vantaggiosa, se l'Europa si apre, ancorché sulle materie prime, certamente un buon segnale agli altri partner per fare altrettanto, ridurre dazi e barriere, respingere ogni tentazione protezionistica, lavorare insieme per la ripresa dell'economia globale. Oggi più che mai questo è necessario, tanto più alla luce dei dati che lei citava, che dimostrano come non si tratti semplicemente di una recessione gravissima sul piano economico e produttivo e anche occupazionale globale, ma di una rivoluzione economica, perché vediamo paesi come la Cina, come l'India, il sud-est asiatico, il Brasile, che oggi sono ripartite in maniera sostanziale e trainano la ripresa economica mondiale, che vuol dire che cambiano le direttrici di crescita, cambia anche la natura competitiva di questi paesi. Basta notare come le nostre esportazioni crescono, e tanto in Cina, molto di più per la prima volta di quanto crescano le importazioni di prodotti cinesi in Italia. È cambiata anche in tal senso la storia del mondo. È cambiato quello che vendiamo ai cinesi e quello che noi compriamo dai cinesi. Tra l'altro, su questo, ma ne parleremo domani anche con i presidenti di due importanti associazioni di Confindustria, su questo va detto che, siccome la quota totale, la torta totale del commercio mondiale non si è ristretta così tanto, il meno 25%, 20% del nostro export o nella produzione industriale ce lo becchiamo tutto noi, come se lo becca la Germania, ma il commercio mondiale non ha avuto questo tracollo. Allora, se la torta resta più o meno uguale e noi facciamo un meno 20, vuol dire che la nostra fetta che si restringe, attenzione, non è una torta complessiva che si è stretta. Ultime due domande su questo tema, Vice Ministro Urso. La prima, poi arriviamo all'accordo importante, perché è molto concreto, pragmatico, diciamo un libero scambio di merci tra l'area del Veneto e appunto la Bielorussia. Però vorrei capire, per queste aree che cosa state facendo? Lasciamo stare per un attimo Minsk e la Bielorussia, adesso ci arriviamo. Ma visto che le direttrici sono Sud America, India, Cina, e noi sappiamo che il sistema di piccole imprese italiane ha difficoltà ad avere le reti lunghe, ad arrivare fin lì, a gestire investimenti così importanti, qual è il supporto che si può dare concretamente? Ma innanzitutto abbiamo realizzato e stiamo realizzando le missioni di sistema proprio in quest'area con tutto il sistema Italia, dalla Confindustria all'ABI, le nostre associazioni e il nostro governo. L'abbiamo fatto recentemente e non a caso con oltre 600 imprese in Brasile e in Cile insieme al ministro Scajola. La stiamo preparando le due missioni di sistema di quest'anno in giugno in Cina insieme alla Confindustria e al presidente Merceggaglia, e a fine anno nel Golfo Arabico, in Arabia Saudita, in Oman, in Qatar, paesi strategici proprio per tornare a crescere insieme a loro. Abbiamo predisposto su delega del governo la riforma globale, delega del Parlamento, la riforma globale degli enti per l'internazionalizzazione, a cui sto lavorando in queste settimane su indicazione del ministro Scajola, e che sarà presentata alla conferenza delle regioni, quindi al Consiglio dei Ministri subito dopo le elezioni regionali, per diventare operativa entro l'autunno di quest'anno, e quindi avremo la riforma degli enti ICE, SIMEST, FINEST e INFORMEST, la loro semplificazione e razionalizzazione, accanto alla riforma degli incentivi, peraltro già in parte realizzato con la riforma della 394 che facilita la penetrazione commerciale delle piccole e medie imprese italiane, e la riforma globale del commercio attraverso un testo unico sul commercio che servirà da manuale per le imprese e gli operatori. Abbiamo confezionato nuovi strumenti finanziari e creditizi con la SACE, la Cassa Depositi e Prestiti, e la SIMEST, perché in questo momento sappiamo che è importante finanziare l'export italiano attraverso questi meccanismi di assicurazione creditizia in assenza o comunque supplendo a quando le banche abbiano difficoltà a realizzare. c'è da mettercela tutta, ovviamente, perché questa rivoluzione comporta anche una nuova e più alta sfida, si alza l'asticella della competizione nei paesi emergenti e l'Italia non può restare indietro. È vero che lo scorso anno abbiamo perso tanto, il 20% delle nostre esportazioni, è anche vero che si è ridotta la bilancia commerciale, soprattutto è vero che la crisi riguarda tutti i nostri più grandi competitori. Noi anzi, insieme alla Germania, -19,7%, insieme alla Francia, -22%, abbiamo resistito più e meglio di tutti gli altri partner europei. Sì, chiaro che però è difficile dire mal comune mezzo gradio con queste cifre, ma è vero, anche è giusto anche guardare agli altri. Un'ultima domanda appunto su questo accordo, vedo che ce lo chiedono anche al 349 238 6666. Praticamente voi avete definito la Bielorussia una nuova Romania per le piccole e medie imprese italiane, tra l'altro c'è un plafond di 205 milioni di euro da investire e un distretto industriale a Brest che avrà particolari esenzioni fiscali, ma soprattutto un collegamento ferroviario merci diretto da Porto Gruaro, cioè provincia di Venezia. Sì, e anche di più, io ho appena finito i colloqui col primo ministro, col vice primo ministro e col ministro dell'economia, abbiamo definito meglio il progetto, noi gli abbiamo proposto e loro hanno accettato entusiasti di realizzare non soltanto un distretto industriale italiano in questa città, polo produttivo, alle porte dell'Unione Europea e corridoio logistico infrastrutturale naturale per il grande mercato dell'Unione Doganale e quindi della Bielorussia, del Kazakistan, della Russia. La Bielorussia è un piccolo paese, 10 milioni di abitanti, ma insieme agli altri sono 170 milioni di consumatori che adorano le merci italiane. Ma in più di realizzare sempre a Brest una porta d'accesso privilegiata attraverso questo corridoio ferroviario a cui si raggiungerà un corridoio aereo di aerei cargo che per la e insieme un corridoio preferenziale doganale come quello che abbiamo realizzato grazie all'Agenzia delle Dogane e alla sua efficienza col porto cinese di Tianjin, in questo caso col porto italiano di Genova, un corridoio doganale che possa permettere di sdoganare le merci velocemente a Brest per invadere poi non il mercato bielorusso soltanto, ma il mercato russo e quello kazako, perché dal 1 marzo nasce l'unione doganale fra i tre paesi e quindi un unico mercato interno e le merci italiane che oggi hanno difficoltà ad essere sdoganate in Russia potrebbero farlo in futuro più velocemente e a meno costo a Brest, dove avranno una piattaforma logistica italiana con la Simest, avranno una piattaforma commerciale e accanto un distretto italiano. Oggi ci siamo accordati per avere a disposizione 170 ettari per realizzare qui degli investimenti logistici, produttivi e commerciali, una piattaforma di lancio per invadere meglio un mercato ricco come quello dell'Est Europa. Invasione chiaramente pacifica e oggi nella delegazione di 70 imprese, tra cui spiccavano Finmeccanica e Danieli, ma anche gruppi bancari come Unicredit, Intesa San Paolo e Mediobanca. Grazie vice ministro Urso, in collegamento con noi proprio da Minsk. Allora, non possiamo continuare sull'export sui mercati, vi torneremo, non vi preoccupate, è un tema che tocchiamo ciclicamente perché è quello che più interessa le nostre imprese. Lo ripetiamo ancora una volta, visto che non si attendono grandi numeri sui consumi interni, meglio agganciare la crescita dell'economia a livello mondiale. Dopo il meteo e la pubblicità commenteremo anche la borsa, chiuso leggermente debole, -0,3%, ma soprattutto la geografia dell'Italia, come esce dalle dichiarazioni dei redditi degli italiani. Ora in radio è un po' difficile fare vedere i grafici, ma insomma vi consiglio oggi solo 24 ore del lunedì, perché emerge un'Italia divisa, mettiamola così, anche nella dichiarazione dei redditi e delle volte anche in maniera un po' ingiustificata. Non è solo il problema nord-sud o centro campagna o metropoli-provincia. Comunque 349-238-6666 per i vostri sms, ci risentiamo fra qualche minuto dopo il meteo e la pubblicità. ...17:37, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare ai mercati, dicevo -0,3, tutte allineate le borse in chiusura, anche Parigi -0,3, Londra invece invariata, Francoforte un po' perdeva un po' di più, ha mantenuto questa differenza, -0,6%, l'America invariata. Vorrei raccontare l'Italia geografica, ma diciamo come esce dalle dichiarazioni dei redditi degli italiani, e le sorprese non sono solo per quello che riguarda il nord-sud, come tutti possono immaginare, o per quello che riguarda la differenza tra metropoli e campagna. Ci sono delle sorprese nella classifica che oggi è sul Sole 24 Ore, anche all'interno dello stesso nord, e i divari obiettivamente sono così ampi che lasciano pensare con un certo margine di sicurezza che la differenza vera la faccia, per carità, la ricchezza del paese, ma anche in particolar modo l'evasione fiscale. Beh, insomma, immaginabile infatti che il nord, le città, diciamo, del Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia fossero in testa alla classifica, ma resterebbe sorpreso chi pensasse a una classifica appunto così didascalica come è nell'immaginario collettivo. La prima città è Milano, 30.000 euro di reddito medio dichiarati nel comune, poi viene Bergamo, Monza e fin qua ci siamo. La sorpresa arriva all'ottavo posto perché Siena si colloca con 24.500 euro davanti a città come Varese, undicesima, Lodi, dodicesima, Lecco, tredicesima, Mantova, quattordicesima. E stiamo parlando di dichiarazioni medie. Uno poteva anche non immaginare, mettiamola così, che Siena fosse più ricca di Varese, Lodi, Lecco, Mantova e anche di Parma. Poi c'è una sorpresa, perché per esempio Pisa è al quindicesimo posto, più ricca, o meglio, secondo quello che dichiarano i suoi abitanti, di Brescia, Como e Trento, che sono al diciannovesimo, ventesimo e ventunesimo posto, ma anche di Pordenone e Udine, ventiduesimo e ventitresimo. Continuando a scorrere questa geografia dell'Italia fiscale, del contribuente, scopriamo che per esempio Cagliari, e qui voglio dire, sfido chiunque a dimostrare che non sia un problema anche di evasione, col massimo rispetto per chi abita nelle città che citiamo. Insomma, Cagliari è più ricca, 22.226 euro di dichiarazione media, di Vicenza, di Verona, di Cremona, di Reggio Emilia, di Venezia, di Belluno, di Genova, di Cuneo, di Aosta. E anche di Ferrara, che è 41esimo, di Biella, che è 40esimo. Ora, insomma, se si vanno a vedere i livelli di presenza industriale, insomma, che Cagliari sia più ricca di queste città, fatichiamo a crederlo. Poi il caso che a noi piace di più è Cesena, 77esima, cioè dietro Bari, dietro Macerata, Salerno, cioè 20-30 posizioni più povera di queste città che ho appena citato. Anche questa è una sorpresa. Anche Pistoia è 74esima. E poi il caso migliore di tutti, Rimini è praticamente nel gruppo dei comuni meridionali, cioè tra Siracusa e Cosenza ci sono gli abitanti di Rimini, noi non ce l'avevamo mai accorti, che hanno dichiarato 17.500 euro lordi di media all'anno. E qui qualche sospetto sul tipo di attività principale della costa romagnola viene, e anche qui non se ne abbiano gli albergatori, i ristoratori, i baristi, i proprietari di discoteche. Però insomma, che a Rimini si dichiarino tanti soldi quanti a Cosenza, Matera, Agrigento, Nuoro, per chi conosce un po' l'Italia, insomma, è assolutamente inverosimile. Allora, ne parliamo con i colleghi del Sole 24 Ore, che hanno, in maniera a mio avviso molto anche divertente, intelligente, sviluppato questa geografia dell'Italia fiscale. Giovanni Parente, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, La variabile principale qui è, mi sembra di poter dire, per le differenze che abbiamo trovato, l'evasione fiscale. Assolutamente sì, anche i nostri esperti l'hanno confermato, ci sono grandissime differenze fra il nord e il sud del paese, ma ci sono anche differenze che non sarebbero eventualmente spiegabili se non si facesse ricorso al tema dell'evasione fiscale. Un'evasione fiscale che è diversa a seconda delle aree del paese, ci dicono, un'evasione che è molto più al margine al nord, invece al sud rischia di diventare un'evasione totale, per cui molti settori produttivi hanno una filiera che è interamente sommersa. Sì, diciamo che poi arriviamo al nord-sud, anche all'interno di aree omogenee, cioè voglio dire, io sfido qualunque economista a dimostrarmi la differenza che c'è tra Cremona, Reggio Emilia da un lato e Lodi, Lecco dall'altro. Notiamo differenze di 10-15 posizioni, così come sfido qualunque economista del territorio a dimostrarmi che Cesena ha un reddito di 20-30 posizioni più basso rispetto ad Avellino, a Salerno, a Macerata appunto e a Potenza, o che Rimini appunto viaggi nel gruppo di Matera, Cosenza e Siracusa, adesso è Benevento, Enna. Praticamente tra un abitante di Enna e un abitante di Rimini come dichiarazione dei redditi c'è una differenza di 500 euro lordi l'anno. Adesso va ben tutto, ma per cui c'è una quello che avete scoperto è che c'è una differenza anche intraterritoriale all'interno di, diciamo, di distretti o di aree produttive simili. Certo, i distretti non vanno sulla stessa linea, vanno per questo l'esame, la fotografia delle mille Italie, perché le Italie sono differenti molto spesso tra il confine comunale da paese all'altro, e questo dà un'idea della difficoltà anche e delle incognite su cui bisognerà ragionare in ottica federalismo fiscale. E ci arriviamo, concludiamo però questa mappa, perché così come abbiamo notato delle differenze assolutamente ingiustificabili e ingiustificate tra comuni della stessa area, resta però poi è vero, tu hai detto mille Italie, giusto, ma resta una differenza inaccettabile dal punto di vista economico tra nord e sud. Allora, se veramente tutti i comuni del sud, diciamo da Pescara in giù, avessero dichiarazioni di redditi che sono la metà rispetto a quelle del nord, e quindi viaggiamo, diciamo, dai 15.000, anzi 11.000, Andria è il comune più povero quanto a contribuenti, 11.500 euro l'anno lordi, ora va ben tutto di media, ma insomma saremo a un livello da altra sponda del Mediterraneo, mettiamola così. E chiunque viaggi in Puglia sa che la Puglia non è esattamente una regione in cui ci siano i problemi del Nord Africa, tutte queste comuni, tranne alcune eccezioni del sud, sono tutte tra i 12.000 e i 15.000-16.000 euro di reddito lordo annuo. Stiamo parlando di quasi 10.000 euro di differenza rispetto al nord. Perché dico irrealistica? Perché questo, Giovanni, non si vede però quando si va a analizzare l'andamento dei consumi. Assolutamente no. Questa differenza, questo divario non esiste quando si esaminano appunto i consumi, e lo sottolineavano anche gli economisti che abbiamo sentito, come in realtà dietro questo divario vada letto ci sia una retroimmagine che non si riesce a cogliere immediatamente, e che quindi in qualche modo anche la spesa pubblica crei un effetto di compensazione già sulle differenze di reddito che esistono fra i paesi del nord e i paesi del sud. Sì, ma lo crea a numeri falsi, cioè nel senso, a numeri taroccati. Adesso parliamoci chiaro, sappiamo tutti che l'evasione è un problema del paese, però che a Milano in media o a Bergamo o a Monza ci siano tre volte i soldi che rispetto a molte città della Puglia e anche della Sicilia, vorrebbe dire avere potere d'acquisto tre volte superiore. Così non è, lo vediamo chiaramente, c'è una differenza di reddito nel paese, ma insomma nessuno può dire che tra queste città ci sia una tale differenza di reddito. Che cosa questo vuol dire, per concludere, sul federalismo fiscale? Che quando bisognerà intervenire con le parti attuative della legge che è stata approvata la scorsa primavera in Parlamento, bisognerà tener conto che c'è un gettito reale, che è quello che abbiamo visto nella fotografia di oggi, e un gettito potenziale, che è quello che non si esprime. Quindi quando si tratterà di perequare, vale a dire di distribuire le risorse ulteriori per le città, i territori che ne hanno più bisogno, bisognerà tener conto anche di tutto quel gettito che non si esprime, altrimenti si creerà un altro effetto distorsivo, si rischia di dare troppi soldi a chi invece magari non ne ha bisogno, e quindi alimentare una spirale pericolosa di spesa pubblica che va in direzioni opposte a quello di sviluppare servizi necessari per i cittadini. Eh sì, diciamolo a tutti, insomma, il federalismo fiscale, se è una cosa seria, deve avere dei numeri seri a cui fare riferimento. Questi numeri, in alcuni casi, mi si passa il termine, non sono seri, quindi plauso ai dichiaranti dei redditi di Cagliari, perché appunto sono, tra virgolette, più onesti e corretti rispetto a chi abita a Vicenza, Verona, Cremona, Reggio Emilia, Venezia, Belluno, Genova, perché ripeto, dubito, ma accetto qualunque sfida, che Cagliari sviluppi un reddito superiore per abitante rispetto alle città che ho appena elencato, tra cui anche Ferrara, Perugia, Cesena e Rimini, grazie a Giovanni Parente. Lo so, è un tema che fa arrabbiare anche chi scrive a 349-238-6666, però insomma queste sono le cifre, si ottengono semplicemente il numero di contribuenti divisi dichiarazioni di redditi complessive. Adesso il traffico, poi la borsa, poi parliamo dell'accordo Ferrovie dello Stato Telecom e infine anche del turismo. 349-238-6666 per gli sms. Dunque, la prima, vedo molti messaggi su questo, sulle dichiarazioni di redditi. Lo so che questa cosa vi fa alcuni casi arrabbiare, in altri la contestate. Vedo anche molti messaggi, così chiudo la parentesi sms per adesso, sulla Toyota. Allora, contestate il fatto che ho detto richiamato 8 milioni di auto, ho detto ritirato e non richiamato. Avete ragione, la Toyota ha richiamato, cioè le auto vengono prese, rimesse a posto e ridate, non ritirato. Colpa mia, la notizia però c'è tutta ed è inutile che si continui a dire ecco, amplificata la notizia per fare un favore a Fiat, ma quando mai? Abbiamo appena letto la notizia di 30.000 cassa integrati e la Toyota ha ritirato 8 milioni di auto a livello mondiale, mica gliel'abbiamo chiesto noi. Comunque, onore Michele, Radio Colle, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Giornata piattina sugli indici che si chiude con un leggero calo, meno 0,3. Parigi, Milano, meno 0,6 Francoforte, meno 0,2 Londra, invariata l'America. Sarà il caso di concentrarsi quindi sugli spunti di casa nostra, sui due fronti opposti, Telecom meno 2,70, Mediolanum e anche Pirelli più 1,5%. Pirelli e Telecom. Esatto, Telecom meno 2,7%, la scorsa settimana i titoli avevano registrato un rialzo, oggi sono fioccate le prese di beneficio, peraltro comunque sale l'attesa per i conti del 2009 che verranno approvati dal Consiglio di Amministrazione giovedì e annunciati insieme alle linee guida del piano industriale fino al 2012 venerdì prossimo. Intanto proprio il Corriere Economia di oggi ha scritto che gli obiettivi finanziari della compagnia che erano stati indicati per fine 2011 saranno posticipati di un anno e quindi questa è una notizia che è stata recepita male dalla borsa e in aggiunta che i soci italiani di Telco, la scatola ricordiamo che controlla il 22,5% della compagnia telefonica, starebbero studiando un piano alternativo rispetto all'eventuale fusione di Telecom con Telefonica, un piano che presuppone la vendita delle partecipazioni estere di Telecom, della TV, delle attività commerciali, una focalizzazione di Telecom solamente sulla rete infrastrutturale, tutto al fine ovviamente di ridurre il debito. E questo per quello che riguarda Telecom. Sì, Pirelli invece Pirelli. È salita più 1,5%, i titoli si sono messi in evidenza sin dalle prime battute sull'onda della notizia data venerdì a mercato chiuso che la società ha deciso di alzare tra il 4 e il 6% a partire dal prossimo aprile i prezzi dei pneumatici per far fronte all'incremento dei prezzi delle materie prime che è costretta a utilizzare appunto per realizzare i pneumatici. La borsa quindi vede un aumento dei margini della società e conseguentemente ha premiato le azioni con questo progresso dell'1,5%. Ancora sui titoli, al di là di Pirelli e Telecom Italia, Fiat oggi, al di là della conferma della cassa integrazione, 30.000 operai dipendenti e gli stabilimenti chiusi per due settimane, Fiat debole meno 1%. Va detto anche che anche il mondo bancario oggi è stato molto molto misto, con Unicredit meno 1,1%. Fiat, e se ci sono novità su Unicredit. Sì, Fiat è andata male, ovviamente il mercato continua a interrogarsi sul futuro della società, dello stabilimento di Termini Imerese, ma va detto comunque che oggi è andato male tutto il settore auto europeo. Il sottoindice Stoxx 600 del vecchio continente ha perso l'1,58%, quindi tutto sommato Fiat si è mossa in linea con i concorrenti con il resto dei concorrenti europei. Per quanto riguarda le banche invece sì, hanno registrato un andamento contrastato, alcuni titoli come MPS, Banco Popolare, BPM sono saliti, altri sono scesi. Unicredit sin da questa mattina era uno dei titoli più deboli, non ci sono diciamo motivazioni particolari, era salita molto nei mesi precedenti, quindi è uno di quei titoli che sono più soggetti ai realizzi. Ancora oggi attenzione sul comparto petrolifero, mentre vedo appunto che Eni cede non tanto, lo 0,3% si ferma a 17 euro per azione. Sì, c'è molta attenzione al comparto petrolifero, ma soprattutto a quello dei servizi petroliferi, visto che in America è stato annunciato nel fine settimana che il gruppo Schlumberger ha lanciato un'acquisizione, un'OPA su Smith International, mettendo sul piatto 11,3 miliardi di dollari. Ovviamente questo ha riacceso i riflettori su tutto il settore. A Milano in particolare ne hanno beneficiato le Saipem, che sono state gettonate per gran parte della seduta, sebbene poi abbiano frenato sul finale, abbiano salvato solo uno 0,36% dei guadagni della giornata. Ancora tra i migliori e peggiori in assoluto, dunque house building meno 5, Meride meno 4, antichi pellettieri meno 3,7 e media industrial peggiore meno 6,3. Tra i migliori Arena più 14, beni stabili più 10, Gabetti più 8,6, risanamento più 6,5%. Beni stabili, mi sembra che poi tutto il settore immobiliare si sia mosso. Sì, c'è un'attenzione a tutto il settore immobiliare dopo che si sono riaccesi i riflettori proprio su beni stabili, che è stata la migliore, più 10,5 come hai detto tu. Questo perché Foncière de Région ha annunciato che ridurrà la quota in beni stabili dall'attuale 68% al 52,5%, come distribuirà ai propri azionisti un dividendo sotto forma sia di cash che di azioni beni stabili. E, peraltro l'operazione è stata apprezzata anche dal mercato francese, dove le azioni di Foncière de Région sono andate molto bene. Ma detto questo, è importante l'operazione per beni stabili, in quanto aumentando il flottante della società consente alla società stessa di ottenere il regime di SIC e quindi di ottenere anche un beneficio da un punto di vista fiscale. Grazie, grazie. Allora Michele, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Adesso sta per arrivare Ger, vedo ancora molti messaggi al 349-238-6666 sull'evasione fiscale, comunque sulla dichiarazione dei redditi. C'è chi dice, beh, forse a Cagliari il reddito è più alto di città del centro-nord, e scrive infatti da Modena l'ascoltatore, perché a Cagliari ci sono più extracomunitari, in molte città del nord, scusatemi, ci sono più extracomunitari. C'è chi dice Macerata non deve sorprendere perché non c'entra nulla con il sud. Io dico va bene, troviamo le scuse, no? Le scuse sono facili da trovare, però attenzione perché alcuni dati sono incontrovertibili. Beh, se vogliamo discutere del fatto che Rimini non possa avere 17.500 euro lordi di dichiarazione dei redditi come a Siracusa, Benevento, Enna, Reggio Calabria, parliamo, o uno l'hai messo a Rimini oppure io tanto che non ci vado e quindi è successo di tutto a Rimini. A me sembra che il settore produttivo, mettiamola così, di Rimini, cioè il turismo, porti anche forse così a maggiore elusione, possiamo dirlo. E Ferrara, che guadagna meno come reddito pro capite rispetto a Caserta e a Cagliari, sulla stessa scia di Avellino, Ferrara come Avellino, ma per favore. E poi insomma si facciano un esame di coscienza di chi dichiara redditi a Vicenza, Verona, Cremona, Reggio Emilia, Venezia, Belluno, Genova, perché sono tutti più poveri degli abitanti di Cagliari, che a questo punto scopriamo essere una regione ricca, molto ricca, 22.200 euro lordi di dichiarazione, molto più delle città che ho appena citato, inclusa anche Cesena, Prato e Pistoia, che sono addirittura alla 77esima posizione. In GR poi parliamo di Telecom Ferrovie da un lato e del turismo dall'altro, 349-238-6666, parleremo anche della posizione di Roma, visto che ce l'avete chiesta, poi vi racconteremo anche dove si colloca Roma e qual è il comune più ricco di Roma, anche lì c'è un po' da sorridere, il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso dell'accordo Telecom Ferrovie dello Stato da un lato e dall'altro anche di turismo. Molti gli sms che arrivano al 349-238-6666 sul rapporto oggi pubblicato dal Sole 24 Ore del lunedì, l'Italia vista dalla dichiarazione dei redditi, la geografia dei comuni misurata dal fisco, insomma, a parte, insomma, così, devo dire, la maggior parte dei messaggi sono sostanzialmente del tenore cifre inaccettabili. Cioè, ci sono anche però, immagino, abitanti di alcune delle città coinvolte che trovano giustificazioni abbastanza così singolari, poco ortodosse. Ricordo che oggi su Sole 24 Ore emerge un divario non solo nord-sud, e questo lo sapevamo tutti, non solo campagna-città, e anche questo lo immaginavamo, ma all'interno del nord. E ripeto, il caso più clamoroso è Cagliari, che è la 28esima, mentre Rimini è la 95esima quanto a dichiarazione dei redditi pro capite. Devo dire che scrive un ascoltatore, ma insomma, se comprare un bagno in Romagna, in Emilia, costa 450.000 euro con 15.000 euro lordi di dichiarazione, sono un po' di più, sono 17.000 euro lordi, il calcolo non regge. Vabbè, ma lo sappiamo tutti, lì c'è evidentemente una grossa evasione, anche perché non si offendono i titolari dei bagni, degli stabilimenti balneari né dei ristoranti, però insomma la dichiarazione media dei redditi dei ristoratori italiani è 18.000 euro lordi l'anno. Ora, stiamo ragionando su 1.000 euro netti al mese in chi è un ristorante. E vale anche per gli alberghi, vale anche per i bar, vale anche per tante altre cose. Più interessante la spiegazione che danno alcuni di voi, a mio avviso, e anche su Sole 24 Ore di oggi veniva riportato come uno degli elementi di interesse, cioè le città dove c'è molto lavoro dipendente, non solo privato ma anche statale, impiego pubblico, comunale, regionale o anche semplicemente a livello nazionale, sono quelle in cui emergono più redditi, e questo spiegherebbe perché Cagliari sia più ricca di Vicenza, di Verona, di Cremona, di Reggio Emilia, di Venezia, di Genova, di Aosta. Cagliari più ricca di Aosta mi fa impazzire. Ma anche di tanto, perché Cagliari dichiarano 22.200 euro, a Aosta 20.000, cioè 2.000 euro lordi in più di media. E poi di Ferrara, 20.800, alcuni dicono, ma Ferrara è una città povera, non c'è industria. Oh, insomma, a parte che Ferrara è una città di una civiltà incredibile, se la si va a guardare è difficile pensare che Ferrara sia, diciamo, messa così male da essere al livello di, ripeto, Avellino. Gli distinguono 200 euro lordi di differenza all'anno. Roma, volete sapere di Roma? Roma si colloca alta, al nono posto, 24.500 euro, sopra Parma, sopra Varese, sopra Lodi, sopra Lecco, sopra Mantova, sopra Modena, sopra Bolzano, sopra Brescia e Como e Trento e Pordenone e Udine. E anche qui probabilmente il pubblico impiego pesa, quelli sono redditi che vengono dichiarati e basta. L'alta velocità, cambiamo tema, che per alcuni versi è meglio. L'alta velocità e l'accordo annunciato, vedo altri messaggi, l'accordo, scusatemi, annunciato oggi tra Ferrovie dello Stato e Telecom Italia, anche qui un accordo che prevede due elementi importanti per chi usa il treno, e nonostante tutte le polemiche sul Freccia Rossa, ne abbiamo parlato molte volte, abbiamo chiesto al numero uno delle Ferrovie dello Stato Moretti di venire in trasmissione più presto, e quindi ritardi accumulati, servizio che all'inizio è partito male, e anche la protesta di molti viaggiatori sulla soppressione dei treni non Freccia Rossa sul Milano-Roma, e così come il disagio dei pendolari che continuano a viaggiare male, e anche questo penso che si possa dire, ma lì le FS dicono è colpa degli accordi con le regioni che non li firmano. Dicevo, ciò nonostante, oggi accordo tra Telecom e le FS. Allora, entro pochi mesi sui treni ad alta velocità scomparirà la prima e la seconda classe. Vi saranno quattro livelli, io non ho capito bene, ma ne parleremo anche con Moretti se arriveremo alla quarta classe, perché sarebbe un ricordo, se io non oso pensare, ci passino le FS la battuta, ma non oso pensare cosa possa essere la quarta classe. Ma insomma, quattro diversi livelli per qualità del servizio, lo ha annunciato lo stesso numero uno Mauro Moretti, ha detto nel corso dell'anno supereremo le due classi per avere quattro livelli di servizio, da un elemento base di trasporto, spero a questo punto almeno dentro il treno e non sopra, ma stiamo scherzando, ci mancherebbe vista la giornata, senza particolari esigenze dei passeggeri. Immagino che però le esigenze igienico-sanitarie saranno incluse ai massimi livelli oggi conosciuti al mondo. A parte le battute, è chiaro che questo significa, come dicono gli esperti di marketing, segmentare, targettizzare i vari clienti, quello che vuole tutti i servizi e quello che invece vuole semplicemente essere trasportato. Speriamo che in questo modo si abbassi anche il livello del prezzo minimo del treno, perché avendo soppresso i treni normali, gli Intercity di una volta, ce ne sono solo due su Milano-Roma o tre, adesso non vado a memoria, ma nell'arco di una giornata, almeno insomma, per chi non ha particolari esigenze, si applichino anche tariffe un po' più basse. E poi appunto l'accordo con Telecom Italia investirà 20 milioni di euro per potenziare entro l'anno il segnale della rete di telefonia mobile, ossia si riuscirà a lavorare al computer in wifi praticamente lungo tutta la linea dell'alta velocità, che se abbiamo ben capito vuol dire non solo la tratta Freccia Rossa, che si partirà con Freccia Rossa, ma anche Freccia Argento e Freccia Bianca. E allora Mauro Moretti, amministratore legato alle Ferrovie dello Stato, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, e subito dopo, sempre al microfono del nostro Vincenzo Miglietta, Franco Bernabè, amministratore delegato di Telecom Italia. Il motivo è perché i nostri clienti lo chiedono dal lavoratore allo studente, al professionista, al manager, e quindi dobbiamo fare. La difficoltà che noi abbiamo, a differenza di altre situazioni, che abbiamo tante gallerie e soprattutto sui treni a alta velocità dove c'è una schermatura per il corpo di lega d'alluminio, è difficile avere il campo all'interno, dobbiamo fare interventi sia sulla parte esterna, quindi vale per le linee, che per la parte di equipaggiamento interno dei treni. Il tutto per poter avere non solo voce e dati, e quindi usare internet eccetera, ma anche per poter mettere a disposizione un pacchetto di servizi, dalle news alla meteo, al films e così via. Tutti i treni di alta velocità, i tipi Freccia Rossa, Freccia Argento e gli altri treni che scorrono sull'alta velocità. Poi treni che non verranno dotati di questo sistema potranno comunque approfittare del potenziamento del campo che verrà messo sulla linea, perché in questo caso ci sono meno difficoltà, non ci sono schermi particolari come avvengono invece sui treni a alta velocità, e quindi la possibilità di poter parlare o avere dati anche sugli altri treni sarà molto, molto più facile. Ma già si sente sui esit poi, in questo caso completeremo questa operazione di perfezionamento sulle linee. Poi naturalmente il problema è che c'è un problema di incrociare l'equipaggiamento delle linee con l'equipaggiamento delle flotte, e quindi gradualmente avremo a dicembre questo completamento dell'una e dell'altra. Ma verrà offerto internet in mobilità a tutti i clienti di Telecom Italia, ovviamente, delle ferrovie, ma sarà aperto anche agli altri gestori. Quindi tutti quelli che utilizzeranno la Freccia Rossa potranno avere un collegamento a internet ad alta velocità in condizioni ottimali. Noi potenzieremo la linea col segnale UMTS e inoltre all'interno dei singoli treni costruiremo un sistema di distribuzione del segnale Wi-Fi, per cui si potrà accedere sia ai servizi voce con l'UMTS sia ai servizi date sia con l'UMTS che con il Wi-Fi. Tutto questo entro il 31 dicembre, con delle sezioni che verranno realizzate nel corso dell'anno, per cui progressivamente. Così appunto Franco Bernabè, ci scusiamo per l'interruzione dell'intervista, c'è un problema alle nostre macchine e computer. Allora facciamo così, andiamo in viabilità, informazioni per chi è in viaggio, poi ve le facciamo risentire anche nell'ultimo pezzo. Do anche delle risposte a chi dice, insomma, conosco titolari di bar e ristoranti che hanno chiuso e pagherebbero per essere in attivo di 1000 euro al mese. Si vergogni, un commercialista di Milano. Ma nessuno dice che non ci siano problemi anche nei bar e nei ristoratori. Abbiamo solo detto che 18.000 euro lordi l'anno di media è obiettivamente troppo poco. Abbiate e fateci un favore, nessuno sta dicendo che non ci siano difficoltà anche lì, così come è vero che a Ferrara molti redditi derivano dal mondo dell'agricoltura. Abbiamo dedicato intere puntate alle difficoltà degli agricoltori, al fatturato in calo, ai prezzi alla produzione che sono crollati, per cui attenzione. E anche su Belluno, le difficoltà dell'occupazione, anche lì siamo d'accordo. Detto ciò, l'Italia, la geografia fiscale dell'Italia, così come oggi la incolonnata al Sole 24 Ore, non regge il traffico. Ultima parte di Focus Economia, prima di arrivare al turismo, per correttezza, no, mi fanno, ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, perché abbiamo qualche problema col computer oggi, volevo farvi risentire l'intervista di Franco Bernabè, appunto sul servizio che verrà offerto su Freccia Rossa, perché si è interrotto per un problema di computer a metà. Chiediamo venia, eccola di nuovo al microfono il nostro Vincenzo Miglietta. Ma verrà offerto internet in mobilità a tutti i clienti di Telecom Italia, ovviamente delle ferrovie, ma sarà aperto anche agli altri gestori, quindi tutti quelli che utilizzeranno la Freccia Rossa potranno avere un collegamento ad internet ad alta velocità in condizioni ottimali. Noi potenzieremo la linea col segnale UMTS e inoltre all'interno delle dei singoli treni costruiremo un sistema di distribuzione del segnale Wi-Fi, per cui si potrà accedere sia ai servizi voce con l'UMTS sia ai servizi date sia con l'UMTS che con il Wi-Fi. Tutto questo entro il 31 dicembre, con delle sezioni che verranno realizzate nel corso dell'anno, per cui progressivamente i clienti potranno utilizzare i servizi a partire da Milano e da Torino in un crescendo che coprirà poi tutta la tratta dell'alta velocità. Allora, ce l'abbiamo fatta, e ultimo tema di questa puntata, i dati sul turismo. Perché? Da un lato perché ieri si è conclusa la BIT, quindi la Borsa Internazionale del Turismo, con dati confortanti. Insomma, per noi il turismo è un settore che vuol dire il 10% del PIL, 160 miliardi di euro di fatturato, 300.000 imprese, così torniamo a parlare questa volta in chiave positiva dei ristoratori, degli albergatori e di chi fa turismo, di chi gestisce i bagni. 300.000 imprese, 2 milioni e mezzo gli occupati, comprese tutte le attività del turismo. Anche qui, molte volte abbiamo detto che l'Italia era leader negli anni 70, quando però c'erano meno mete, numero uno al mondo, ed è scivolata al quinto posto dopo Spagna, Francia, USA e Cina come destinazione più vista. Resta al secondo posto in Europa, al primo posto c'è la Spagna. Nel 2009 il calo in Italia è stato del 4,3% come flussi, come notti spese in albergo. In Spagna ha avuto il calo del 6,5%, anche se mantiene la prima posizione, e quindi la classifica vede Spagna, Italia, Germania, Francia, anche lei ha avuto un bel calo, la Francia meno 5,5%, e Gran Bretagna. Dottor Giorgio Cocco, direttore generale di ISNART, che è l'Istituto Nazionale per le Ricerche sul Turismo, buonasera. Buonasera, grazie. Partiamo dalla BIT, perché è vero che ha tenuto, dato è buono, più 6% l'affluenza, con 5.000 soggetti presenti tra tour operator, hotel, enti del turismo, 130 paesi rappresentati, però a dimostrazione che questa crisi modificherà le abitudini, gli stili e quindi la neosobrietà, come la chiamano i sociologi dei consumi, è vero che il low cost è quello che l'ha fatta da leone? Oggettivamente, guardi, i consumi degli italiani sono un po' variati con questa crisi, perché mi faccia fare una parentesi, scusi la rettifico soltanto di un punto percentuale, che è in positivo, quindi iniziamo con un dato positivo, non è un calo del 4 ma è un calo del 3 rispetto all'anno scorso, il che però è andato benissimo perché poteva essere molto più alto il calo appunto dell'occupazione delle camere, se non avessero gli operatori invece, come hanno fatto, ridotto i prezzi. E qui mi ricollego pure ad un discorso che faceva prima, qui albergatori, ristoratori in generale hanno abbassato dell'11% i prezzi come dato medio. Ora, lei può immaginare che cosa significa un 11% in meno di tasso medio? Significa che c'è gente che l'ha battuto del 40% e gente che ha fatto prezzi della metà e gente che ha mantenuto i prezzi come l'anno scorso. Quindi questo fatto ha consentito, insieme anche a delle condizioni meteorologiche soprattutto favorevoli verso la fine dell'anno, ha consentito di mantenerci in una posizione di minor perdita rispetto agli altri paesi. Sì, lei non si sta riferendo però alla dichiarazione dei redditi, perché lì era un ragionamento che veniva dal Sole 24 Ore sul perché Rimini sia povera come Cosenza, perché quello, mentre Venezia e altre città mete di turismo, penso anche a Firenze, sono al 17° posto, sono in alto. Comunque, restiamo sui temi usciti dalla BIT e sul settore. Low cost? L'attenzione è molto alta. Guardi, le faccio un esempio per essere proprio chiari su questo discorso. Allora, innanzitutto sono aumentate le vacanze brevi, quindi piccoli periodi, in modo che la gente possa godere di questo di queste piccole vacanze. Secondo, quello che invece a livello complessivo è molto evidente, che la diminuzione della disponibilità monetaria ha fatto diminuire in quasi tutti, diciamo, i settori del turismo la spesa dedicata ad attività ricreative ed è andata quindi ad aumentare, con quello che le dicevo poc'anzi, con meno 11%, la quota dedicata all'alimentazione e all'alloggio. Quindi, come può ben capire, si è speso sostanzialmente di meno, lo si è speso meno sicuramente in attività ricreative, meno cercando di risparmiare il più possibile per arrivarci, per scegliere all'ultimo momento la migliore tariffa e contrattare, cosa che ormai è abbastanza consueto, l'alimentazione, soprattutto l'alloggio, contrattare con l'albergatore la, ecco, la quantità. Quindi, per tenere tutto quanto assieme, c'è stato un calo nel settore nel 2009 dell'11%. I prezzi prezzo medio. No, fatturato delle imprese del settore turistico meno 11, esatto, dati vostri. Esatto. I prezzi diminuiti dell'8,8%, però gli italiani hanno speso meno per le attività ricreative, ma hanno mantenuto, hanno diretto i soldi, diciamo, quelli che avanzavano per le seconde case, più 20%, per esempio. Anche questa è un'indicazione interessante: di solito la seconda casa si sceglie e si utilizza per risparmiare, insomma, immagino. Proprio il classico esempio, come tempo. Uno non va in albergo, usa la seconda casa e se ne fa una ragione. Se questi fossero i problemi, noi non faremmo questo programma. Un'ultima battuta: le previsioni sul 2010. Beh, guardi, i primi mesi sembrano peggio, però ci aspettiamo invece qualcosa di meglio. Ci aspettiamo, se non altro, una tenuta, ecco. Non facciamo altre previsioni, perché oggi fare le previsioni è come guardare in una palla di vetro, però apparentemente... Sì, anche ieri, visto quello che hanno fatto gli analisti, i grandi analisti nel 2007. Comunque, vabbè, accettiamo... Abbiamo soltanto una migliore prenotazione, ecco. Probabilmente proprio per poter puntare dei prezzi più e buoni. Anche qui le prenotazioni sono un segnale di una neosobrietà, si prenota molto prima perché sa che si risparmia. Grazie. Grazie. E buona serata al direttore generale dell'ISNART, Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche. Allora, ultimo dato: dite a Barisoni di leggere la borsa prima di chiudere il programma. Dite, non so a chi si è riferito, ma io sono uno e ve la leggo, non c'è problema. Meno 0,17% Dow Jones, meno 0,34% Parigi, meno 0,60% Francoforte, meno 0,11% Londra, a meno che non fosse un problema in estate, ma dubito. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.